Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di olio a 360 gradi, parleremo di olio d'oliva deodorato, parleremo di olio di semi, ma soprattutto io voglio iniziare da questa ultima trovata demenziale dell'Unione Europea, e di cui appunto ora ne parleremo, questo provvedimento che andrà in vigore dal 1 aprile. Voglio fare un commento su questo: c'era già tanto olio taroccato in circolazione, ci mancava questo provvedimento. Ebbene, di questo provvedimento ne voglio parlare con Emanuele Boselli, ricercatore tecnologie alimentari dell'Università Politecnica delle Marche. Buongiorno Boselli. Buongiorno. Allora, è arrivato così, non so se è a ciel sereno, perché magari veramente non ce n'era proprio bisogno, questo innalzamento dei limiti massimi di alchil esteri sull'olio d'oliva. E ora magari lei ci spiega perché, di che cosa si tratta la deodorazione e cosa vuol dire innalzare questi alchil esteri per chi va a comprare olio d'oliva. Voglio ricordare comunque il numero verde 800 24 00 24, chi vuole intervenire, messaggi sms 349 238 6666. A lei Boselli la parola. Guardi, gli alchil esteri sono delle sostanze che si formano quando le olive, prima della produzione dell'olio, vengono conservate male, quindi possono fermentare e si formano delle sostanze sgradite. Però io non sarei così negativo nel giudicare questo provvedimento dell'Unione Europea, nel senso che questo è il primo parametro effettivamente efficace per determinare se un olio extravergine è stato frodato o meno. Ci spieghi perché, allora, come? Perché questo è un parametro analitico prima non c'erano dei parametri precisi da determinare. Adesso finalmente è stato messo questo paletto e comunque i deodoranti non si possono utilizzare. Questo è un parametro di qualità che ci dice se sono stati utilizzati o meno per produrre l'olio extravergine. Ecco, quando si parla di olio d'oliva deodorato, sono degli oli di oliva che, siccome hanno, in cui le olive hanno fermentato prima di arrivare in frantoio, quindi devono essere sottoposti a un processo di deodorazione, cioè l'olio viene sottoposto al vuoto in modo tale da estrarre tutti gli odori sgradevoli, e è sicuramente una frode. Non è possibile produrre olio extravergine in questo modo. Senta, professore, però mi sembra che le olive contengono 10-15 mg al chilo di alchil esteri, massimo 30. In questo modo però viene autorizzato fino a 150, vuol dire quindi che ci si possono aggiungere? Fino a 75, e poi c'è un altro intervallo fra i 75 e i 150, questo milligrammi per chilo. Sì. Questo è un compromesso fra diversi paesi, in cui l'Italia soprattutto e la Spagna, in cui ci sono tecnologie di produzione un po' diverse, però io mi sento di dire sicuramente che questa analisi che viene introdotta può tutelare il consumatore, ma soprattutto tutela il produttore, perché finalmente c'è un parametro di riferimento. Bene, ammesso che le analisi avvengano su tutti gli oli, ammesso questo. Questo è il problema. Il problema è sempre questo, che noi emettiamo sempre dei grandi provvedimenti e sicuramente sulla sicurezza alimentare l'Italia non ha niente da invidiare a nessuno, però bisogna vedere se questi controlli poi avvengono o non avvengono. Comunque la ringrazio Boselli della sua chiarezza, grazie. Prego, a presto. Arrivederci. Sentiamo, abbiamo già molti radioascoltatori. Riccardo da Andria, buongiorno Riccardo. Andria, la capitale dell'olio, vero? Buongiorno, sì, non si sbaglia proprio. Mi dica. Effettivamente ci sono oltre 3 milioni di piante, quindi siamo i maggiori produttori di olio che io sappia. Mi dica, Riccardo. Niente, volevo solo dire che anch'io, essendo anche un agricoltore, un produttore, il costo delle olive è bassissimo. quest'anno si è girato i 40 euro il quintale, quindi lavorarci è dura, andare avanti se non fosse per quel po' di integrazione che ci danno. Tutto va bene, qua. Grazie Riccardo, sentiamo Francesco dalla provincia di Foggia, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno signor Paolini. Sì. No, io volevo evidenziare la situazione dell'agricoltura in Italia. Io sono un piccolo produttore di olio, come al solito giù in Puglia, siamo tutti insomma bene. Nel bene o nel male, ecco, portiamo avanti questa tradizione. Volevo che venisse un po' focalizzata la situazione e indirizzato il consumatore finale, la famiglia e quant'altro, ad orientarsi nella direzione del produttore, cioè accorciare la filiera ed istruire il consumatore ad orientarsi direttamente, cercare le aziende in internet e quant'altro e bene. Andare a comprare direttamente da loro. Sentiamo un secondo Leonello da Roma, buongiorno Leonello. Buongiorno signor Davide, senta, le volevo fare una domanda. Io ho provato più volte mettere i chicchi del Gran Turco in quello pistolo che c'ho per fare il pesto alla genovese. Sì. Ma l'olio non esce, vorrei sapere come fanno a fare vendere un litro di olio di Gran Turco a 2 euro quando non riesco io proprio a produrre olio battendo tante volte sui chicchi di Gran Turco. Guardi, fra poco parleremo di mais, parleremo di tutti gli oli ottenuti dai semi, quindi risponderemo anche al suo tentativo di produrre olio. Ora voglio tornare un secondo a diciamo questo decreto, questa norma dell'Unione Europea di cui abbiamo parlato con il professor Boselli, con Ranieri Filo della Torre. Ranieri Filo della Torre è direttore Unaprol, consorzio olivicolo italiano. E allora lui in prima battuta gli voglio proprio chiedere questo. Cosa ne pensa di questo provvedimento, Ranieri? Buongiorno Paolini e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Direi che finalmente un piccolo, primo, timido passo in avanti per individuare alcune frodi molto evidenti nell'olio extravergine di oliva, perché chiaramente questa nuova regolamentazione introduce per la prima volta un metodo analitico in base al quale si possono evidenziare le presenze purtroppo molto comuni di oli deodorati che non potrebbero esserci negli oli extravergini. Diciamo che come al solito la Comunità Europea poteva fare forse un passo più coraggioso, si è limitata, come dire, ad una scelta un po' di mezzo percorso, però è già un primo segnale di garanzia per i consumatori. Sì, però Ranieri, qui siamo a un aumento però della presenza degli alchil esteri, cioè fino a 150 mg per chilo, il che vuol dire sì, magari sicuramente sì, un passo in avanti per i controlli, però si allargano le barriere su questo di aggiunte, quindi non so se sia così positivo da prendere in maniera positiva. In realtà, come appunto dicevo, è un po' una, come dire, medaglia a due facce. In realtà i lavori che abbiamo fatto sia noi sia alcuni enti di sviluppo agricolo sia altri istituti di ricerca individuano praticamente in 20 parti per milione, come dire, la media degli oli di origine per esempio italiana. La comunità qui ha fatto un doppio discorso, fino a 75 parti per milione, ha messo poi può arrivare a 150 in determinate condizioni. È appunto un passo un po' contraddittorio quello della comunità, però è un primo passo in avanti. Noi speriamo e vogliamo far cambiare questa regolamentazione e quindi stringere ulteriormente le maglie dei controlli. Un secondo punto, sull'etichetta però non apparirà, diciamo, questo procedimento e quindi non è che il consumatore sarà avvisato, avvertito di questo. Dal punto di vista dei controlli potranno essere fatti i controlli e quindi chiaramente tutte le bottiglie di olio extravergine che non dovessero rispondere a questi parametri debbono essere naturalmente sequestrate e tolte dal mercato. Quello che noi pensiamo di fare come parte agricola è quella di una pubblicità comparativa sulla stampa per far capire al consumatore sempre di più la differenza tra un prodotto originale 100% made in Italy e un blend industriale che contiene purtroppo tanti altri prodotti. Insomma, aperte le stalle, puntini puntini. Esatto, ma sentiamo esatto. Enrico dalla provincia di Venezia. Buongiorno Enrico. Buongiorno. buongiorno, guardi, complimenti dottor Paolini per la sua trasmissione eccezionale. Volevo farle, guardi, una domanda importantissima sull'olio extravergine d'oliva. Io ho avuto il privilegio per un periodo di consumare dell'olio raccolto, le olive e frantoiato in privato, e non mi bruciava la gola quando lo mandavo giù, anche così un cucchiaino. Non ho mai trovato una cosa del genere in nessun altro olio. Domanda, livello di acidità. Qual è il livello di acidità, il grado di acidità di un olio extravergine d'oliva accettabile o buono, e perché non viene indicato in etichetta? Perché non lo trovo mai. Ranieri, vuol rispondere lei? Sì, allora dal punto di vista della normativa il quantitativo massimo di acidità è 0,8. E in alcuni casi alcune aziende indicano l'acidità, alcuni hanno fatto appunto delle campagne 0,2, 0,3, la cosiddetta bassa acidità, eccetera. Però non è sempre correlato il dato della, come dire, percentuale di acidità con quello del cosiddetto sapore di cui riferiva il nostro ascoltatore, perché corrisponde praticamente la sensazione a livelli diversi, quelli per esempio di fruttato, di acidità, di fruttato oppure di amaro e di piccante, che dipendono dalla varietà di olivo da cui proviene l'olio. Bene, grazie Ranieri, grazie, la ringrazio. Sentiamo Renato dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Paolini, la chiamavo per fare una piccola riflessione su quello che è l'informazione che viene data sull'etichetta dell'olio extravergine d'oliva. Purtroppo, seppur la comunità europea prevede quella che è la dicitura dell'olio comunitario, l'olio extracomunitario, eccetera, c'è ancora, secondo me, mancanza da questo punto di vista. Il consumatore non è abbastanza informato a riguardo. Quali sono le tendenze, secondo lei, a cui dovremmo tendere tutti quanti? Ma guardi, credo che la maggior chiarezza in etichetta dovrebbe essere evidente, di specificare da dove arrivano quelle olive, dove avviene la frangitura e dove viene imbottigliato. Credo che la chiarezza oggi dovrebbe essere sicuramente un fatto normale, solo che ancora purtroppo non lo è, e sicuramente a Bruxelles molte volte veramente vengono fatti dei pasticci non indifferenti. Perché? Perché ci sono le varie lobby e anche dei vari paesi, i quali hanno interessi contrastanti, e si vede anche dagli ultimi eventi bellici, secondo me, cosa sta succedendo. Quindi ognuno tira per la propria strada e ognuno difende i propri interessi. Non siamo in una comunità, ma sicuramente siamo in un luogo dove ognuno cerca di fare i propri comodi. Bene, grazie, ma io volevo ricordare appunto quello che ho chiesto prima a Ranieri, che anche una radioascoltatrice mi dice: ma se le bottiglie ci sarà scritto che l'olio contiene deodoranti? Ecco, questo è il punto principale. Comunque sentiamo ancora Antonio da Vicenza. Buongiorno Antonio. Buongiorno, mi considero un consumatore consapevole, quindi sto attento un attimo quando vado al supermercato a fare la spesa. Allora io intanto trovo l'olio extravergine di oliva a 2 euro al litro, e chiaramente io cerco di non comprarlo, perché non può essere a 2 euro un olio extravergine d'oliva, soprattutto poi perché oramai l'olio d'oliva in Italia, il mercato è delle multinazionali, quindi olio di marca che fa riferimento alle multinazionali. Il problema qual è? Secondo me la carenza è proprio nella legislazione. Io, se ben ricordo, la legislazione che disciplina la produzione dell'olio d'oliva fa riferimento soltanto alla distinzione dell'acidità per la classificazione se un olio è extravergine, vergine, sopraffino, eccetera, secondo la classificazione, sì, di legge. Quello di Santa è quello fatto rettificato, certo, e che poi la Santa viene sciolta nella trierina, come si sa, eccetera. Perché? Allora, qual è il problema? Io credo, come consumatore, che l'olio d'oliva è l'alimento più sofisticato che esiste nel mercato italiano, perché non c'è nessuna tutela su che quella bottiglia che io compro effettivamente c'è al 100% olio d'oliva. Nella migliore delle ipotesi io posso trovare olio di semi, se è olio di nocciola che rassomiglia al colore a quello di olivo, oppure olio di seme, poi ci metto la clorofilla e poi ci metto un 10% di aroma di olio d'oliva, cioè quello che in Puglia chiamano il verdone, cioè il concentrato del sapore. Quindi è la legislazione che è carente, quindi bisogna andare a vedere esattamente la legislazione. Per esempio, oggi c'è la spettrometria per vedere se è un olio d'oliva. Io ho un mio amico magistrato, tanti anni fa, all'epoca quando c'erano i pretori d'assalto, si è occupato dell'olio d'oliva, delle analisi, eccetera. Si è rivolta all'Istituto Sperimentale di Onelio, mi racconta, e il responsabile gli ebbe a dire che da qualsiasi olio io posso fare l'olio d'oliva, anche in teoria anche di quello dell'automobile che è consumato. Quindi il problema qual è? Noi siamo tanti forti in Italia, diciamo che il Made in Italy, la legge tutela il Made in Italy, la qualità, però per l'olio d'oliva non è così. Sì, no, ma io credo che il problema sia basato soprattutto sui controlli, e sicuramente ci dovrebbero essere controlli maggiori, ma bisogna vedere anche che le forze disponibili a fare questo, quindi questo è un altro punto molto importante. Paolo da Roma, buongiorno Paolo. Pronto, buongiorno. Sì, mi dica. Pronto? Sì, prego, prego, dica. Ah, chiedo scusa, sì. No, volevo fare una domanda tecnica un pochino di altro tipo. Visto che nella frittura con olio si possono produrre sostanze cancerogene, volevo sapere se c'è un qualche nutrizionista che mi sa dire se da questo punto di vista è più igienico l'olio d'oliva o gli oli di altri semi. Bene. Secondo tutti questi additivi che si mettono, quanto sono importanti nella produzione di composti cancerogeni? E terzo, questi alchilesteri quanto possono essere responsabili di questo tipo di trasformazioni? Grazie. Ultimo, quanto nell'ambito della frittura sono importanti nella cancerogenicità appunto dell'olio, degli oli, e le temperature quali si dice? Grazie a lei. E non ho un nutrizionista, ma avremo poi dopo un tecnico, ma un grande chef che è Massimiliano Laimo delle Calandre di Padova, il quale è molto attento a questo. Allora gli faccio questa prima domanda, poi gliene farò altre. Massimiliano, tu quale olio usi per friggere? Io quello della macchina. Benissimo. Perché rende di più, fa più chilometri. No, io uso l'oliva per friggere. Usi l'oliva? Sì. Usi l'oliva, è una scelta. Sì, perché ha molti meno acidi grassi poliinsaturi e perché mi piace di più. Senti, tu usi molto, cioè hai lanciato anche un discorso. Punto di fumo più alto. Sì, rispetto a quelli di semi, sicuramente. Sì. Poi vedremo anche quelli di semi. Tu hai lanciato la pasticceria all'acqua e l'olio. Ci vuoi spiegare cos'è? Ma è tutto un concetto di pasticceria italiana che va a contrapporsi a una pasticceria che è stata in qualche maniera un po' omologata. Per cui riprendere quello che sono i sapori italiani e veicolarli attraverso l'olio, la fluidità, i profumi. Questo un po'. Ecco, ma tu usi anche oli essenziali, se non erro? Sì, estrazioni che vengono veicolate con dell'alcol puro, sono estrazioni purissime che lavoriamo con questo grandissimo profumiere che è Dante Ferro, e stiamo addirittura facendo degli incroci aromatici che sono molto interessanti. Abbiamo fatto il cocalandre, che è una ricalca in qualche maniera il profumo della Coca-Cola, però utilizzando una ventina di oli essenziali aromatici naturalissimi, trattati senza solventi, perché questo poi è di fatto il tema, secondo me, fondamentale, no? Per cui, al di là dei piaceri e delle piacevolezze, sono l'aspetto fondamentale è capire che tipo di estrazione che abbiamo ottenuto, che in parole povere è un olio a spremitura oppure un olio che viene raffinato. Anche io sono per gli oli di spremitura, che hanno sicuramente dei costi maggiori, però garantiscono sapore, freschezza e digeribilità. Tu usi mai oli di semi? Sì. Io uso il seme di zucca, che mi piace tantissimo. Uso oli di frutte secche, uso l'olio di vinacciolo in particolare, biologico, ovviamente spremuto a freddo, e lo uso perché oggi si parla molto delle temperature calde, ma si deve pensare anche che l'olio ha delle reazioni diverse col freddo. L'olio di vinacciolo, a differenza dell'olio extravergine di oliva, per esempio, ha un punto di gelamento molto più alto, il che significa che se faccio una maionese o un baccalà mantecato, ho bisogno di in qualche maniera conservarlo a temperatura di 4 gradi, 2 gradi, e non avere una macrocristallizzazione, per cui l'olio extravergine di oliva in purezza mi creerebbe dei problemi di sgregamento strutturale della preparazione. Allora facciamo normalmente dei tagli in cui un 40% è olio extravergine, un 60% è vinacciolo. Questo perché mi crea una struttura proprio reticolare completamente diversa. Fate un esperimento, mettete dell'olio extravergine di buona qualità, che in Italia ce n'è, in frigorifero, e un olio di spremitura di vinacciolo in frigorifero. Dopo 6 ore verificate la struttura. Bene, grazie. Poi sapremo dai nostri radioascoltatori magari quali sono i risultati. Grazie a Massimiliano Alaim. Sentiamo un radioascoltatore, Giuseppe D'Ancona. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, senta, molto brevemente, io vorrei dire questo. Le olive quando rimangono lì e non vengono molate subito, succede che vanno incontro a un processo chimico di degradazione. Sì. Per farci capire, tendono a marcire. Certo. Ora, queste sostanze poi, che naturalmente danno un cattivo odore, un cattivo sapore, devono essere trattate con altre sostanze chimiche. Quindi già il processo di degradazione è una sostanza chimica che fa male all'organismo. Più la trattiamo con un'altra sostanza chimica, certamente non fa bene all'organismo, e quindi quello che ci interessa, oltre al cattivo sapore, è che un alimento così prestigioso, che io mi permetto di dire che poi un giorno se lei vorrà ne potremo parlare, mi permetto di dire che il genio latino deriva dall'olio d'oliva, che può sembrare una battuta, ma c'è un fondamento di verità, va bene? Ora, queste sostanze chimiche, dai oggi, dai domani, fanno male all'organismo, quindi noi ci dobbiamo preoccupare. L'Europa può dire quello che vuole, giustamente, perché poi ci sono le lobby, ma queste lobby non fanno bene alla salute, purtroppo sono altamente tossiche, sono dannose alla salute. Grazie, grazie Giuseppe. Ora abbiamo con noi il Maurizio Servilli, professore di tecnologie alimentari dell'Università degli Studi di Perugia. Con lui vorrei cominciare un discorso che riguarda gli oli di semi, perché se ne parla sempre poco, si parla sempre di olio d'oliva, giustamente, extravergine, con tutti i problemi, tutti i taroccamenti. Però questo ambito degli oli di semi è sempre trattato così, abbastanza poco, se ne sa poco. Buongiorno Servilli. Buongiorno. Volevo chiederle, vediamo che attorno all'olio d'oliva extravergine e all'olio d'oliva ci sono provvedimenti più o meno discutibili di garanzie e di etichettature. È così anche per gli oli di semi? No, per certi versi alcune norme sono simili. In ogni caso gli oli di semi sono molto diversi dagli oli vergini d'oliva, dagli oli extravergini d'oliva. Intanto bisogna considerare che a livello mondiale l'olio di oliva, tutti gli oli estratti da olive sono il 2,7% della produzione mondiale, il 97,3% è olio di semi, e con tutte le conseguenze che questo può comportare. Gli oli di semi in ogni caso sono generalmente molto diversi dagli oli d'oliva dal punto di vista tecnologico, perché la stragrande maggioranza degli oli di semi, a parte una piccolissima nicchia di cui parlava prima lo chef, sono estratti al solvente, cioè con esano che scioglie l'olio, e poi quest'olio, l'esano, viene fatto evaporare e l'olio, che non è commestibile direttamente, viene poi raffinato. Quindi quelle operazioni che sono vietate negli extravergini d'oliva qui sono ampiamente consentite, quindi è un mondo completamente diverso. Ecco, però c'è, come diceva giustamente lei, ce n'è grande uso, grande utilizzo, dalla cifra che ha dato è facile capire, appunto, e questo è un po' preoccupante, che non ci siano così i controlli. Si vedono in queste bottiglie di plastica nei supermercati da un litro a un litro e mezzo, e devo dire che sono così abbastanza discutibili. Però voglio arrivare al discorso delle fritture, perché sempre si discute ad esempio l'olio di arachide viene usato moltissimo in cucina per le fritture. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, gli oli di semi vengono usati moltissimo in frittura perché costano poco, non perché siano i migliori oli possibili dal punto di vista poi dell'impatto sulla salute, perché la stragrande maggioranza degli oli di semi, escluso praticamente l'olio di nocciola, perché ha una composizione in acidi grassi abbastanza simile a quella dell'oliva, e parte dei frazionati di palma, tutto il resto è ricco di acidi grassi polinsaturi che sono facilmente ossidabili. Invece l'oliva contiene monoinsaturi, in particolare l'oleico, che è meno ossidabile, quindi dal punto di vista della resistenza alle alte temperature in frittura sarebbe consigliabile utilizzare oli d'oliva o oli di semi che si avvicinano alla composizione dell'oliva. Ma in realtà la scelta dei semi rispetto all'oliva è solo ed esclusivamente un problema di costi. Certo. Perché in ogni caso gli oli di semi hanno un costo per quanto possano costare poco gli oli d'oliva, è decisamente molto più basso come costo di produzione. Certo. Intendo, Bene, rimanga con noi, professore. Sentiamo Antonio dalla provincia di Cremona. Buongiorno, Antonio. Buongiorno. Mi dica. Sono un ristoratore del Cremasco. Il mio lavoro mi porta in giro per l'Italia a curiosare e devo segnalare che ho trovato un olio eccezionale extravergine, e la cosa può incuriosire, alle pendici del Monte Grappa. Sì. E c'è questa microzona che probabilmente è data da un richiamo di aria calda dalla pianura, dove c'è questo olio extravergine, chiaramente, che è la tipologia del lago di Garda, mi sembra ricordare, e va senz'altro segnalato, anche perché l'Italia è piena di queste piccole realtà. Certo, certo. Queste piccole zone che producono un olio eccezionale. Beh, siamo il paese della... E tra questi mi piace ricordare, anche perché è un personaggio che ha fatto molto per Pove del Grappa, ecco, mi è venuto il nome del paese, Gamberoni, Gabriele Gamberoni ha fatto tantissimo per questa zona, è stato lui che circa una ventina d'anni fa ha scoperto questi ulivi centenari, la cosa l'ha incuriosito, e ora all'ingresso del paese c'è questo cartello, Pove del Grappa, il paese degli ulivi. Bene, la ringrazio, anche perché devo dire che non gli faccio pubblicità perché ne produce talmente poco Gamberoni che anche io uso l'olio di Gamberoni, grazie. E senti, chiusa la parentesi. Bene, abbiamo con noi Marilena Peachen, che è una produttrice di olio di noce in Valle d'Aosta. Buongiorno Marilena. Buongiorno Davide. Io voglio chiedere, come si usa, dove si usa l'olio di noce? Dove lei lo consiglia? Beh, logicamente l'olio di noci va usato esclusivamente a freddo, su tutti i piatti, diciamo, che noi in Val d'Aosta viene usato principalmente nelle insalate, le classiche insalate dei prati, nei fagioli bianchi con le patate, si prepara una buonissima vinaigrette ed è eccellente anche sulle carni e sul pesce. Ecco, quanto se ne produce di olio di noce? Pochissimo, immagino. Veramente molto poco. Diciamo che noi abbiamo voluto fare un po' una ripresa di un olio che si faceva una volta a Val d'Aosta. La Val d'Aosta, non avendo olivi, la gente del posto faceva l'olio con le piante di noce, cioè col frutto della noce. È un olio che si consumava una volta, si è un po' perso e abbiamo voluto riproporlo, anche perché è un olio veramente molto importante per tante cose. Bene, la ringrazio, grazie Marilena Peachen di Dinus Donavit, Arnaud, Valle d'Aosta. Bene, sentiamo Claudio da Brescia. Buongiorno Claudio. Buongiorno signor Paolini. Sì. Allora, io sono un piccolo medio produttore qui nella zona di Brescia, nel lago di Garda, verso Moniga, eccetera. Noi come anche associazione vorremmo anche lanciare una... un'idea o anche una provocazione, visto che tantissimi oli vengono utilizzati dalle grandi distribuzioni commerciali, diciamo che sono ormai fiorenti nel nostro territorio come specchietto delle allodole, e visto anche la facilità di sofisticazione degli oli, perché non responsabilizzare anche loro, anche penalmente, yes, di non mettere nei loro scaffali in vendita quel tipo di oli che si sa che potenzialmente possono essere sofisticati. Cioè, io per carità non voglio nulla togliere a nessuno, però mettere oli a 4 euro al litro, olio extravergine d'oliva 4 euro, 3 euro, appunto utilizzandoli come specchietto della lodole che poi dopo vengono anche pubblicizzati, sì, su tutta quella pubblicità che ti ritrovi sulle buche delle lettere. Certo. Perché no? Perché bene. Dico, la categoria principale a tutela dell'olio extravergine d'oliva potrebbe anche incominciare dall'origine. Ma professore, io voglio chiederle un'altra cosa, viene sempre fuori quando si parla di, appunto, di fritto, il punto di fumo. Ci vuole spiegare cos'è il punto di fumo in maniera chiara, così i nostri radioascoltatori saranno contenti? Ma è il momento in cui parzialmente gli acidi grassi tendono a decomporsi e quindi c'è una parziale evaporazione, e dipende fondamentalmente dalla composizione chimica dell'olio stesso, in particolare dal livello di acidi grassi insaturi e polinsaturi e monoinsaturi contenuti. Ma qui, come ripeto, cioè un olio che ha un punto di fumo più alto può permettere, diciamo così, temperature di frittura più elevate, ma comunque vada, il problema di fondo della frittura sta fondamentalmente nella maggiore o minore ossidabilità del grasso, e su questo purtroppo, ripeto, gli oli di semi sono molto più ossidabili rispetto agli oli d'oliva, appunto perché contengono acidi grassi polinsaturi invece che acidi grassi monoinsaturi. Bene, grazie professore per la sua chiarezza, la ringrazio, a presto. Bene, sentiamo ora, andiamo in Piemonte, andiamo da un produttore di olio di nocciola, perché abbiamo sentito prima olio di noce, ma esiste anche l'olio di nocciola ed è, come ha spiegato anche prima il professor Servilli, è abbastanza così, diciamo, interessante dal punto di vista anche di quello che offre, perché è molto vicino a certi, così, a certi parametri dell'olio d'oliva extravergine. Buongiorno a Alessandro Marengo di D14, che è la società. Marengo, come si produce l'olio di nocciola? L'olio di nocciola, buongiorno, dottor Paolini. Allora, l'olio di nocciola si produce per premitura a freddo, molto molto semplicemente. E normalmente su un chilo di nocciole si produce mezzo chilo d'olio. Il resto è sostanza secca, chiaramente, pannello. Definito pannello. Ecco, a che cosa, cioè, qual è il maggior utilizzo dell'olio di nocciola? L'olio di nocciola viene utilizzato, allora, partendo da anticamente, o comunque fino alla Seconda Guerra Mondiale, veniva usato in periodi di, diciamo così, di scarsità di altri grassi, veniva usato come olio di, io lo chiamo autarchico, al posto dell'olio d'oliva o di altri oli di semi. Adesso viene utilizzato in cosmesi perché ha una elevata penetrabilità sulla pelle, quindi anche da, come posso dire, da starter per altre sostanze attive. Viene utilizzato in cucina, ad esempio noi con carne cruda piuttosto che con pesci, insalate, e soprattutto nell'utilizzo nell'industria dolciaria, chiaramente. Bene, la ringrazio Marengo. Ora il radioascoltatore Claudio da Forlì. Buongiorno Claudio. Buongiorno a lei, buongiorno. Mi dica. Dunque io chiamo perché sono praticamente testimone e fruitore di un olio particolare che deriva dall'oliva berantana, che è una qualità particolare dell'oliva che si coltiva in Puglia, ma in particolar modo a San Paolo di Civitate. Perché segnalo questo? Perché noto che molte autocisterne vengono a caricare questo olio pregiatissimo, che viene venduto all'origine a prezzi bassissimi e poi subisce attraverso perversi meccanismi di packaging, subisce delle impennate di prezzo assolutamente ingiustificate, per cui è possibile trovare dell'olio ottimo che viene prodotto a costi contenuti a prezzi molto molto alti per via del packaging, che è assolutamente, diciamo, non dico inutile, ma è eccessivo rispetto al valore del prodotto stesso, cioè costa molto più il packaging, l'imbottigliamento in bottiglie particolari, eccetera. Io addirittura ho il mio stomaco, ma anche quello dei miei familiari, ormai è viziatissimo. Se noi in qualsiasi altro posto prendiamo un olio che non è buono, noi non abbiamo dei grossi problemi di stomaco. Io vedo per esempio l'olio Altieri a San Paolo di Civitate, che è un olio straordinario, viene venduto a un prezzo al contenuto se viene preso direttamente dal... Ce ne sono tantissimi. Grazie Claudio, grazie. Abbiamo capito il discorso, appunto, dei vari prezzi, del packaging, come incide e altro. L'ho dovuto interrompere perché ho ancora tante telefonate e cerco di rispondere il più possibile. Comunque sentiamo Mattia Pariani. Mattia Pariani è un produttore di olio di pistacchio di Bronte, di pinoli di Rossore, mandorle di Noto e di nocciola IGP. Quindi, diciamo, una gamma incredibile. Ma mi dica Pariani, vuol dire che questi oli veramente hanno un grande mercato? Beh, diciamo che il mercato che hanno è un'assoluta nicchia, visto che le materie prime lo sono in primis. Pensiamo al pistacchio di Bronte, a quanto sia difficile reperirlo, immaginatevi quanto sia complesso spremerlo per ottenerne un liquido verde. Tutto è nato dalla mia tesi di laurea all'università e da lì in poi, grazie a Dio, sono riuscito a trasformare in realtà quello che era un progetto. Ecco, l'olio di pistacchio dove viene usato? Lei dove lo consiglia? Io lo consiglio su marinature di pesci crudi, in primis, sicuramente per fare una maionese alternativa, di conseguenza una maionese dove non è l'olio d'oliva, ma è l'olio di pistacchio, e un esperimento dell'altra settimana è stata una zabo maionese verde, quindi una via di mezzo tra uno zaboione e una maionese fatta da Corrado Assenza in Sicilia. Okay. E quello di mandorle invece, di mandorle di notto, come in pasticceria? La mandorla romana di notto sicuramente in pasticceria ha delle proprietà aromatiche molto interessanti, per cui pensiamo anche all'unione con un'oliva candita e un cappero ibleo. Si riescono a fare la sintesi di alcuni profumi essenziali con pochi ingredienti, vista comunque l'interessante aroma della mandorla tostata. Senta, mi tocca una curiosità, quanto costano? Cioè, sono bottiglie 0,100 queste? Io sì, sono da 100, io sono vittima della materia prima, pensi che il pistacchio Bronte costa 40 euro al chilo e ho bisogno di 5 kg per fare un litro di olio, di conseguenza. 0,100 di olio di pistacchio, quanto le vende allora? Siamo sui 30 euro in negozio. Bene, la ringrazio, mi spiace Giuseppe della provincia di Torino che chiedeva l'olio di lentisco, Francesco da Verona che chiedeva, voleva parlare della nocellara del Belice, mi spiace, però diciamo che le telefonate sono tante e non ho risposto a tantissimi sms, ma l'olio sicuramente è straimportante per la tavola, e volevo anche rispondere ai tantissimi sms che parlano di olio d'oliva extravergine a 3 euro. Bene, io credo che in tantissime altre trasmissioni abbiamo dato risposta a questo. Bene, 3 euro, che dire? Sono in circolazione e io non li acquisterei, però sicuramente se sono in circolazione credo che i NAS abbiano fatto i loro controlli e credo che chi li vende sia responsabile. Poi se non è così sicuramente bisognerebbe intervenire. Qui chiudo, non vorrei andare oltre con questa parentesi perché assolutamente ci porterebbe molto ma molto lontano, ci porterebbe all'oli taroccati e a tantissime altre cose, altre truffe che ogni giorno vengono anche scoperte, quindi c'è da dire che i controlli molto spesso funzionano.